riparla come sempre da qualche mese a questa parte su Radio Città Fujiko e Claudia Mighty Mau. Siamo qui per la puntata, anzi le puntate, perché saranno due, le puntate di fine anno. Chi ci segue dal 2010, più o meno quasi ogni anno, credo, noi abbiamo dedicato le ultime puntate dell'anno a studiare, contraddire, integrare o criticare oppure abbracciare la classifica delle 100 canzoni migliori a giudizio insindacabile della spocchiosa redazione di Pitchfork. Pitchfork Music Media, the most trusted voice in music, ovvero la voce più fidata, insomma il sito più affidabile della musica mondiale. Dicevo, come ho scritto nella presentazione, se la settimana enigmistica è la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, Pitchfork si attribuisce questo titolo, insomma, di essere una rivista musicale, un media online molto molto autorevole, ed è per questo che noi ogni anno ci inchiniamo, andiamo a scoprire soprattutto un sacco di musica nuova, musica che normalmente noi non ascoltiamo. Come abbiamo scritto, troviamo delle conferme, storciamo un po' il naso per l'inclusione di alcuni pezzi, per l'esclusione di altri, ma come già annunciato, le puntate saranno due, perché abbiamo deciso di non fare tanta selezione, fare delle puntate abbastanza massimaliste, in quanto ascolteremo oltre 70 pezzi, credo 73 su 100 della classifica. Questa è la prima puntata di due pre-natalizia, la seconda tra una settimana, il 28 dicembre. Partiamo proprio dalla posizione numero 100 con Post Malone. That the money made you stay. Hey, you know I would throw it all away. I just keep on wishing that the money made you stay. Price went up, my price went up, we went our separate ways. I just keep on wishing that the money made you stay. Post Malone, rapper americano, 23enne, chiaramente tutti giovanissimi, insomma i musicisti di questa scena rap, trap. Un artista che abbiamo conosciuto grazie a X Factor, infatti tanti nomi nuovi, come che ne so, l'anno scorso Dua Lipa, ce li siamo imparati io e la mia compagna di visione di X Factor Olivia, appunto grazie a questa trasmissione. Mi pare è stato cantato un paio di volte da due concorrenti di X Factor. E poverino Post Malone, questa canzone si chiama Rich and Sad, della serie adesso è fatto successo, sono ricco ma tu te ne sei andata, e nel ritornello dice io desideravo che i soldi ti facessero, continuavo a sperare che i soldi ti facessero restare, ma a te non te ne è mai fregato niente, e quindi direi pure va bene così. E Pitchfork ovviamente c'è una scheda per ogni pezzo e fa questo paragone tra i Beatles, che nella top 20 nel 64 avevano 6 loro pezzi, e questo record è stato proprio battuto da Post Malone dopo 54 anni, che ha piazzato 9 pezzi nella top 20 contemporaneamente, compresa questa Rich and Sad. Get out until the water's cold and I am blue. I see it, I'm killing doubts, so I just open up the door and I ring it out. Don't you get too far from yourself. You're so hard on yourself. Oh, tra le scoperte, appunto in retrospettiva a fine anno, scopriamo che durante l'anno sono usciti dei dischi di artisti che noi non conoscevamo. E che ci piacciono anche, insomma, esteticamente, proprio una bella ragazza. Si tratta di Mia Folic, di Santana, California, mezza giapponese e mezza russa. Ah, poi in quasi tutti i casi i pezzi nella classifica fanno parte ovviamente di album, infatti il pezzo di Post Malone fa parte dell'album Beer Bongs and Bentleys, mentre l'album di Mia Folic si chiama Premonitions e questo pezzo è Stock Image. Abbiamo anche postato nel corso della giornata una manciata di video che appunto coprivano le posizioni dalla 100 alla 50 e il primo è stato proprio quello di Mia Folic, posizione 99. Quindi sì, dobbiamo dedicarci, anche Olivia, dobbiamo dedicarci all'ascolto di Mia Folic, quest'album Premonitions, che è il primo album dopo un paio di EP, nel 2015 e nel 2017, tre singoli tratti da questi lavori, e questa Stock Image ci piace davvero molto, molto ariosa, molto pop. Ormai appunto anche quello che viene considerato pop, quello che viene considerato indie, insomma sono sempre più labili le barriere e le etichette lasciano il tempo che trova. E la caratteristica di Pitchfork è che include sempre tantissimi pezzi rap o hip hop. Ovviamente il loro criterio è pezzi che siano stati rilevanti negli Stati Uniti, quindi ovviamente la scena rap a volte fa veramente la parte del leone. Quest'anno un po' meno, sorprendentemente, soprattutto nella classifica degli album, di solito è sempre al primo posto, che sia Kendrick Lamar, che sia Kanye West, insomma, che sia Frank Ocean, l'anno scorso nei singoli c'era Cardi B, nei singoli, nelle canzoni appunto, questa classifica invece del 2017, e quindi ascolteremo, come abbiamo scritto, pezzi di generi, appunto il rap e l'hip hop, che noi non seguiamo, non frequentiamo, diciamo, ma che comunque ci piacciono. E c'è anche una caratteristica quest'anno: i rapper morti. Come lui, Mac Miller. Mac Miller, questo pezzo si chiama Self Care, è abbastanza impressionante guardarlo adesso, sapendo insomma della sua storia. È morto il 7 settembre, una overdose accidentale, solito miscuglio di fentanyl e altre sostanze, quando appunto aveva una carriera in grande ascesa. Classe 92, aveva già pubblicato diversi lavori, e cosa che io non sapevo, è stato per diverso tempo, insomma, per quanto riguarda le star, anche un anno e mezzo è tanto tempo, insomma, è stato il fidanzato di Ariana Grande. Yeah. I've been losing my mind, yeah. Get the fuck out the way, okay. aveva esordito nel 2011 con Blue Slide Park, a cui erano seguiti altri quattro lavori, l'ultimo di quest'anno Swimming, da cui appunto è tratto questo Self Care, dove c'è lui che è, si sveglia, è dentro una bara grezza dove fuma, dove canta, dove incide delle parole con un coltello. Hell yeah, they letting me clap. I switched the time zone, but what do I know? Spending nights hitchhiking, where will I go? I could fly home with my eyes closed, but if you're kinda hard to see, there's no surprise though. I was thinking too much, got stuck in oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. I got all the time in the world, so for now I'm just chilling. Plus I know it's a beautiful feeling. In oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. Capita anche che per motivi di tempo la maggior parte dei pezzi siano un po' sfumati. Normalmente in una nostra trasmissione sono più o meno 23 le tracce che suoniamo, in questo caso sono una trentina, credo 34, quindi. Lay my belly on a woman. E dopo Mac Miller, sebbene Pitchfork sia nordamericano-centrico, ogni tanto c'è anche qualcosa di anglosassone, in questo caso Edinburgh, Scozia. Un trio che noi conosciamo, abbiamo anche già messo un pezzo in trasmissione una volta per la trasmissione dedicata al festival Vodafone Paradis de Cora, perché l'abbiamo visti dal vivo una volta, sono i Young Fathers. I wanna be king until I am. A man is just a man, I understand. Has everything gone to plan? Don't say it out loud, just let me dance. Said I was a saint, I'm a sin again, and then I sin again, again, again, again, again. I really wanna take your honor. I'm writing blank checks, I'm a greedy bugger. I take your daughter to feel the thunder. Daddy's little girl, now they'll be my love. Nothing's ever given away. So pezzo si chiama In My View, tratto dal loro album di quest'anno, Cocoa Sugar. Un trio, Aloysius Massaquoi, Caius Bancole e G. Hastings. Adesso nella loro scheda di Wikipedia leggo che hanno partecipato al Meltdown Festival, l'edizione del 2017, curata da MIA, Mia, non lo sapevo. E questo è stato il pezzo pubblicato a gennaio con cui hanno annunciato l'uscita di questo album Cocoa Sugar, il terzo della loro carriera dopo il debutto del 2014. Hanno anche un pezzo nella classifica di T2, ovvero il seguito, il sequel di Trainspotting, che non ho ancora guardato. I am. wanna be king until I am. E adesso arriva una nostra beniamina, di me, Olivia e dei altri, anche i nostri amichetti, tant'è vero che abbiamo già comprato i biglietti per andarla a vedere all'inizio di aprile a Berlino, perché in Italia non ci viene. Ma infatti sia io che Olivia abbiamo un po' girato l'Europa per vederla, no, girata, lei ci è andata apposta. Io mi trovavo, comunque l'abbiamo vista all'estero finché non è venuta a Bologna. E abbiamo detto, era ora, Sharonetta. Sharon Van Etten, a cui noi dedicammo tanti anni fa una mezza puntata tra lei e le Warpaint, Because It Was Love, Epic, diciamo l'opera che noi amiamo di più, poi Tramp, poi Are We There. Adesso noi aspettiamo che il 18 gennaio esca questo nuovo album, Remind Me Tomorrow. Di cui appunto questa Comeback Kid è un'anticipazione, ma è uscito anche un altro pezzo, Olivia perdonami, Jupiter. Magari c'è chi non la conosce come musicista, che se magari ha visto invece delle serie TV dove figura in Twin Peaks come musicista, ma invece in DOA come uno delle creature, degli angeli imprigionati. Io piango. Che il 15 febbraio, quindi subito dopo San Valentino, fa uscire questa cover di Moon River, bellissimo pezzo della colonna sonora, insomma pezzo di Colazione da Tiffany, pezzo a cui sono molto affezionata e mi commuove sempre tanto. Such a crazy world. you'll see. We're all chasing after our end, chasing after our end. It's just around the bend, my friend. Moon, river. Where you're going, I'm going your way. E adesso preparatevi ad un piccolo shock, perché forse non ci poteva essere più generi, più suoni più diversi tra questa cover bellissima di Moon River di Frank Ocean e quello che sta per arrivare, che è Aphex Twin da Collapse EP, T69 Collapse. Noi in realtà nella trasmissione dedicata Club to Club avevamo suonato due pezzi tratti da questo EP, e uno era T69 Collapse, però una versione diversa detta Durichroma, invece questa è, diciamo, l'originale. E ce la teniamo sotto per fare un po' il punto della situazione. Siamo partite dalla posizione numero 100 con Post Malone e le abbiamo ascoltate tutte fino alla 95. Infatti Mia Frolic 99, Mac Miller 98, Young Fathers 97, Sharon Van Etten 96, Frank Ocean 95, poi al 94 ci sarebbe stata, no, ci sarebbe, c'è una tale Amber Mark con un pezzo che si chiama Love Me Right, un pezzo, insomma, R&B, una canzone d'amore, un amore, insomma, fino a un certo punto, la serie, cioè amami per bene, trattami bene, amami nel modo giusto, perché noi ce l'ascoltiamo tutte, che siamo molto curiosi di andare ad ascoltare roba che non conosciamo e non abbiamo problemi a dichiarare che qualcosa ci piace, di volerla condividere e farla ascoltare, anche se magari è la roba più lontana da noi per abitudine o formazione. Ma per i più attenti, nell'immagine che abbiamo usato a corredo dell'evento Facebook e anche, insomma, della entry nel nostro blog mightfm.blogspot.it, dove poi finiscono tutti i nostri podcast, avrà notato che non c'è solo l'immagine di Pitchfork delle 100 best songs del 2018, ma c'è anche una scritta abbastanza così enigmatica, vero? AOTY, che sta per Album of the Year. Infatti esiste questo sito albumoftheyear.org che raccoglie tutte le recensioni, tutti i voti e soprattutto Album of the Year lo vai a guardare a fine anno, perché raccoglie tutte le classifiche di fine anno che vengono, appunto, man mano aggiornate in tempo reale. Adesso è l'ultima volta che ho controllato la classifica delle classifiche con i voti aggregati di tutte queste liste dei vari media, il numero di queste classifiche era arrivato a 100, e quindi guardando, insomma, un po' la classifica anche di Pitchfork dei 50 album dell'anno e questa classifica di Album of the Year, sto facendo, insomma, anche un po' dei confronti, perché poi ci sono anche degli artisti che figurano nella classifica dei pezzi ma anche in quella degli album, come per esempio di quelli che abbiamo già sentito Young Fathers è al 29esimo posto come album dell'anno, Mac Miller al 41esimo, quindi sempre nella top 50, anche, diciamo, se mi fa un po' strano che come album vengano anche considerati dei lavori che durano tipo 15 minuti. Capisco album come opera, come concetto, come opera in sé, opus, ma insomma penso che un album dovrebbe avere, insomma, una lunghezza maggiore. E come dicevamo, ascoltiamo anche tanto rap, hip hop, di solito appunto capita che è solo in questo tipo di trasmissioni che si ascolta Might FM del rap e dell'hip hop, e in questo caso è Future. Perché poi abbiamo scelto, cioè abbiamo notato che la musica rap, i pezzi hip hop sono sempre molto emo, molto malinconici, molto melodici, molto tristanzuoli, come questa Hate the Real Me, tratto dalla mixtape di Future di quest'anno che si chiama Beast Mode 2. Showing out in public, show the real me. Pulling up in public, damn I hate the real me. My mama stressing out, she say these drugs got me. And I ain't been the same since that nigga shot me. Holding on that K, I hope you feel me. Loading up the cartridge right now, I hate the real me. Voices in my head, you the enemy. I got a portrait in my head, I built a dynasty. I gotta focus on this bread, you tryna marry me. Cup is out of ones in the bed, tryna share me. Feel his eyes going out that way, tryna smash me. She told her mama she tried to smash me. She told her friends to try to smash me. She told her ex she tried to smash me. She told the world she tried to smash me. I'm in the last lane, fast speed. I do hella blue ways, baby, go to South Beach. I do hella blue ways, baby, let your mouth speak. I do hella blue ways, baby, let your body I'm talk. I'm tryna get high as I can, I'm tryna get high as I can, I'm tryna get high as I can. I'm tryna get high as I can, I'm tryna get high as I can, I'm tryna get high as I can, can. I'm trying to get high as I can because I hate the real me. Ma perché questi rapper, oh vabbè, parlano di varie donne, macchine, orologi di marca, sciorinano tutti i nomi del grande lusso, cioè anche Beyoncé, il pezzo che ascolteremo tra poco, fa così, tra Lamborghini, c'hanno poi sta fissa per i Lamborghini, Patek Philippe, orologi, patacconi di lusso. Oppure sono proprio tristi, a volte sono tristi dopo aver conseguito fama, successo e soldi. E così, Future. E poi abbiamo ascoltato Future con Hate the Real Me, tratto da Beast Mode 2, e mi sono anche informata tra, che non lo sapevo, la differenza tra mixtape e album. E ho scoperto che mixtape è di solito una release gratuita, quindi normalmente in formato digitale, anche se ci sono delle eccezioni. Tipo che Drake, non so, mixtape invece era a pagamento. I'm so sure of my diamonds designed to twinkle and bleed my Dopo aver ascoltato Aphex Twin, l'abbiamo tenuto prima per sottofondo, insomma non è che ha tanto bisogno di presentazioni, Richard D. James, eravamo alla posizione 93 e poi siamo passate saltando Charlie XCX, che era la 92, siamo passate a Future, che era alla 90, abbiamo saltato anche un altro pezzo sempre hip hop di una crew, una coppia di rapper che si chiama 700 Bliss. Abbiamo saltato Carly Rae Jepsen all'89. Quindi insomma non è proprio che tutto, ma I arrivate a quella tamarrona di Azealia Banks. Che ha spaccato nel 2012 con 212. Eccola. In front row, shades always, these bitches can't look low. Bob sleek chic, see I fit those. In vogue, I do what you can't know. I'm runway, you know they a sideshow. I'm first page, the main stage is disciples. The one name that y'all know. Just take notes, stay on top like halos. Make pesos, most of these bitches is microns. You new puss, this catwalk is my phone. I'm penthouse, you trap house and rhinestones. These diamonds on my bone be my own. Invent styles, I've been crowned, it's my home. Bitch, I'm going in ball gowns, it's fringe zone. You take shots, I make shots, the end zone. These bitches overall us the lore as they win. Then you show me, now I believe. E poi c'è stato un debutto con l'album molto atteso nel 2014, Broke with Expensive Taste, un po' una delusione. Poi anche lì vari mixtape, vari singoli, un sacco di liti con un sacco di gente. Infatti è un po' lasciata perdere, sembra un po' una sola. Infatti ha annunciato questo album, Fantasy 2, The Second Wave, e poi a luglio ha detto no, non lo pubblico più, lo butto via. No, lo pubblico, non lo pubblico, non si sa, però sicuramente dovrebbe farne parte questo pezzone che si chiama niente po' di meno che Anna Wintour. Vero, per chi non lo sapesse, la mega direttrice galattica di Vogue, quella sempre con le, uguale a se stessa, col caschetto, frangetta, occhiali scuri. E dopo Azealia Banks rimaniamo sempre nella scena rap hip hop con questo trio che addirittura io sentivo sempre Migos, Migos, Migos, pensavo che fosse un rapper, invece è un trio. No need to brag now. No need. Hey, put the mask down. Mask. We living fast now. Fast. Finest, old, finest, rose. Differenze dagli altri rapper che vengono dalla California o dallo stato di New York, da appunto un quartiere di New York come Azealia Banks che viene da Harlem, i Migos vengono da Lawrenceville, Georgia. Sono appunto tre rapper, Quavo, Offset e Take Off. Questo pezzo contenuto nell'album si chiama Culture 2. Regret shit yet. I'm petting, I don't got a debt. You crawl for you brawl, you can't ball every week. All my dogs on the wall, we gon' ball when you free. Stop watching me, democracy, you wanna copy me. Life's monopoly, gon' copy some letters. Scorrendo qui su Wikipedia si vede dei paragrafi. Tipo Offset è stato in galera prima di entrare nel gruppo, poi dal 2016 al presente questioni, cause, questioni legali. E l'ultima voce dice nel 2017 il rapper del sud della Florida XXX Tentacion, un altro che è morto, ha dichiarato che il gruppo, insomma, il trio lo aveva ferito e aveva puntato una pistola, quindi sempre gente molto tranquilla. E comunque c'è già un Culture 3 annunciato per l'anno prossimo. Static. It must be the paddock. I got blue cheese, I'm in that kitchen. E appunto, io non conoscendo questi gruppi la musica che fanno normalmente, ho letto che questo pezzo Stir Fry è molto diverso dal loro stile, che è più trap, ma appunto ho letto che si trovavano nello stesso studio dove lì accanto c'era anche Pharrell, che se n'è venuto fuori con tutta questa serie di beats un po' old school, molto melodici, datati addirittura nel 2008. E comunque, per rimanere sempre in zona, questa tranche di pezzi è quasi tutta improntata al rap e l'hip hop, e arriva la coppia reale, regale dell'hip hop, ovvero The Carters. Put some respect on my check. Pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish. I got expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Ice ornaments. Ice style ornaments. You ain't on of this. Don't think they on of this. But I'm a jet. E niente, io I can't bring myself to listen to The Carters o Beyoncé o Jay-Z, ma tutti me lo consigliano. Questo pezzo ha fatto clamore, Ape Shit, perché è stato girato, ci hanno detto sì, affittiamo questa location, il Louvre. Pezzo tratto da Everything Is Love. Come se fossero appunto una coppia normale, i vicini della porta accanto, i Carter, cognome di lui ovviamente. Insomma, io quando ho visto questa cosa sono rimasta un po' male, come prima c'è tua sorella che lo mena perché t'ha messo le corna e tutti lo sanno, e c'è il video eccetera eccetera, e poi però niente, te lo riprendi e anzi ti riproponi come moglie di, anche se vabbè è un po' una scena, perché lui dai ormai è diventato abbastanza inutile, chi porta i pantaloni è lei, chi porta i soldi a casa è lei. Undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you. Every night we in the end zone. Tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking zoo. Stage diving in a pool of people ran through Liverpool like a fucking beetle. Smoking Rilla glue like it's fucking legal. Tell the Grammys fuck that 0 for 8 shit. Have you ever seen a crowd going ape shit? Change. I don't give a damn about the fame. Nope. GA planes. Alexander Wayne. Woo. She a thought that you claim. Woo. Can't be typing my rain. Oh. Now popping my bitches off, popping. We go to the dealer and cop it off. Sipping my favorite alcohol. Got me so lit, I need Tylenol. All of my people are free, I'm on. I feel no one wanna see the stars. Sending the missiles off. Tricking my inhibitions off. 250 for the rich and meal. Yeah, yeah. Living a feel. My body made you go near. Man, my mama, my lord, my shield. Look at my jewelry, I'm lethal. These diamonds on me, they see. È vero, sì, è un pezzone e non ho mai avuto tempo di ascoltarlo e né di guardare il video, ok? Ma adesso arriva una delle due tre eccezioni a questa tranche, eccezioni a questa scena rap hip hop, che in questa parte della classifica siamo sulle posizioni intorno all'ottantina, e appunto vedono insomma una grande presenza. Azealia Banks era 88, Migos 87. Abbiamo saltato in realtà Mount Eerie, poi l'85 Beyoncé e Jay-Z. E adesso c'è questa meraviglia. E comunque appunto tra questa meraviglia e The Carters c'era un altro pezzo hip hop di Valli. Ecco, io posso dire che questo potrebbe essere uno dei miei dischi dell'anno, sebbene intero penso di aver ascoltarlo solo una volta, ma mi piace così tanto. Ma dici chi è? è, sono Amen Dunes. Che abbiamo passato in trasmissione per la puntata dedicata al Primavera Sound di Porto. Abbiamo messo la bellissima Blue Rose e il concerto Amen Dunes è stato l'unico di quel festival che mi ha dato proprio l'idea di essere ad un festival musicale, perché c'era addirittura il sole, perché insomma il resto del tempo meteorologico insomma è stato veramente abbastanza triste. E questo album, l'album che contiene questo pezzo che si chiama Believe, si chiama Freedom. E ho detto singolare e plurale perché praticamente è il progetto musicale di Damon McMahon dal 2006. E questo è il quinto album. Questo album Freedom, che contiene questa Believe che abbiamo dovuto tragicamente troncare, è al 47esimo posto nella classifica aggregata, quindi la classifica delle classifiche dei dischi dell'anno, ma per esempio al 14esimo posto per la classifica di Pitchfork. E arriviamo ad un altro rapper un po' triste e malinconico. Questa base è molto bella, che si chiama Macaulay Culkin il pezzo, perché prende il titolo dal primo verso che dice: mi tengo la faccia tra le mani come Macaulay Culkin. Ricordiamo tutti l'immagine principale di Home Alone, che era a casa da solo, tragicamente, anche questo tradotto in italiano: mamma ho perso l'aereo. I think I'm Rick and Morty in the lab. I take precautions, snipe them out, burn the body, stash the Glock by the coffin. That's just for me. Your style is my custody, man. I should charge a shipping fee. These rappers don't mean shit to me. L'autore di questo pezzo è JPEG Mafia, ha scritto tutto attaccato, tutto in maiuscolo, che i fan chiamano amorevolmente Peggy. È un pezzo brevissimo. Deborah Pack turned stone cold in a simple steed. Where that? Slap a nigga up, then I get the cream. $5, six cookies, sounding like a deal to me. Yo shit don't appeal to me. My fans going hell for me. Gots to keep it real for me. Shouldn't it be on no bills of me? These punk niggas be killing me. That whack shit ain't trill to me. Fuck y'all niggas, I take the heat. Darn shit, nigga. Rapper di Baltimora, Maryland. E il pezzo praticamente finisce, c'è anche un po' questa moda, va molto sta cosa di fare dei pezzi molto molto molto brevi, contenuti poi in opere. Forse anche questo stesso Veteran, che di JPEG Mafia, che contiene Macaulay Culkin, sarà un'opera molto breve, di durata. Sì, c'è questa moda, soprattutto moda, vabbè, capita che ci siano pezzi, sempre più spesso, pezzi rap hip hop molto molto brevi. E ripassiamo alla sezione rapper morti, rapper emo, rapper tristi, rapper bianchi, tutte e due Mac Miller e questo Lil Peep erano caucasici. Anche questo pezzo paradossalmente si chiama Life is Beautiful, come il pezzo di Mac Miller si chiamava Self Care, e anche lui è morto nel sonno, anche lì una overdose accidentale, fentanyl e Xanax, mentre era nel tour bus poco prima di una serata di un concerto. Nato nel 96, morto nel 2017. Olivia mi dice che è l'unico idolo di Young Signorino. E aveva anche una carriera come modello. Era appunto molto, diciamo, eccentrico proprio rispetto alla scena rap, a parte per lo stile appunto molto molto emo, ma anche per l'aspetto. E infatti è stato proprio il pioniere di questo post emo revival style, sia nell'hip hop che nella musica rock. Arriviamo ad una giovane cantautrice che noi portiamo in palmo di mano proprio da quando è uscita fuori, e anche lei aveva penso due pezzi nella classifica annuale di un paio di anni fa, credo, però pare che non abbia ancora fatto un album, ha fatto un paio di EP credo. E questo è anche uno dei video che abbiamo postato oggi. Anche questo pezzo ho un ricordo molto nitido di averla ascoltata e canticchiata in un taxi a Porto. Lei è Nilüfer Yanya. Definita da Pitchfork un pop prodigy londinese, ma di ascendenza varia, dalla Turchia al creolo, si vede soprattutto nei capelli e negli occhi. E e mischia diversi stili. A me piace tantissimo, nei pezzi sembra tipo i Pixies. Non ho detto, e questo pezzo si chiama Grazie di niente, Thanks for Nothing. Mi veniva la parola Bajan Heritage, ovvero le isole dell'India occidentale, insomma Barbados e giù di là, ma anche irlandese, ma anche turca. Keep them safe inside me where they drown and serve. I take my heels off and I run like no tomorrow. Run, baby, run, I'm at the bus stop. One pound 50 takes you anywhere you wanna go. Anywhere is fine where you can't find me. I thought I had the right to be forgotten. Everywhere I go you're right behind. Niloufer Yanya era alla posizione numero 80, abbiamo saltato altri pezzi R&B con voce femminile, proprio non ce la facciamo, e siamo arrivate invece a questa Lolina, che non è altro che un ulteriore pseudonimo di Inga Copland, già parte degli Hype Williams con Dean Blunt. E con questo pseudonimo Lolina ha fatto un album che si chiama The Smoke, e questo pezzo si chiama The River. Sperimentale, non conosco il disco ma me lo sono procurata, che appunto non si può star dietro a tutto, e questo viene definito il pezzo più immediato. Invece ci sono dei pezzi che sono proprio corti e basta. Ayo. Do this shit in one take. Ayo. E siamo tornati, appunto, a parte qualche eccezione, alla scena rap hip hop, con uno di quelli che insomma ha fatto tanto tanto successo. Anche lui ha suonato a Porto l'anno scorso, abbiamo visto veramente poco. Comunque Tyler the Creator, questo pezzo singolo si chiama Okra. Fuck it, travel back, Balenciaga, 30,000 just for luggage. Financial advisor bugging, flower boy is buzzing. Grammy nominated, tell your cousin ain't nobody fucking with them. Man, there they go, I cut off some friends. Where they go, I stick to the plan, that's the goal. Fuck these niggas, man, that's for sure. Say, Uno the shoe, red with the blue, look like a flag, what the fuck it do? Gon' be the set, no more F, like Ron Artest, but you ain't for your neck, give a fuck about you. All your respect, yeah, that way, fuck your accolades, but I made the cut like a pack of blades. You could call me Brush, I've been making waves since Ashley Banks, cause I had a fade, but that's 92, I'm 91. Watch Riot in my blood, nigga, what's up? And that pussy pink like the drink in my cup. Lemonade, yes, Minute Maid, I've been getting paid, pockets gaining weight, your bank statements on Mary Kate, but that's up to you. Man, that ain't good. I cut off some friends. Where they go? I I stick to the plan. That's the goal. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen to me. E dopo Tyler the Creator, questo bellissimo pezzo è di un artista che abbiamo già ascoltato a Mighty FM e che ha riscosso molto successo con questo suo album di quest'anno, Devotion. Lei è Tirza. Noi ne abbiamo ascoltato un mix di 3-4 pezzi in occasione della puntata sul Club to Club e purtroppo l'abbiamo persa perché suonava nella prima serata di apertura. Avevamo suonato Do You Know Gladly, e un altro pezzo, se non altri due. I don't want a solution. I just want to explain things. I'm not looking for reactions. I'm not looking for acceptance. You can come to me with honesty. You can come to me with tenderness. È proprio il pezzo che si chiama Devotion con la partecipazione di Kobe 6 che stiamo ascoltando. Un pezzo che occupa la 76esima posizione, ma invece per quanto riguarda l'album il discorso è diverso perché si è piazzato benissimo. Insomma, a fronte di nomi più affermati e conosciuti, sia nella classifica delle classifiche che in quella di Pitchfork, Devotion occupa la 13esima posizione. E l'altra volta avevamo detto non molto bene, fatto che questo disco è stato prodotto a livello musicale con la sua compagna di studi, ovvero Mika Levy, ex Mika Chu and the Shapes. Avevamo detto che poi Tirza aveva smesso di fare musica dedicandosi invece allo studio della moda, Fashion School, e poi ha ricominciato a collaborare con Mika Levy e hanno prodotto questo bellissimo disco. Un altro bel contrasto per un pezzone che non abbiamo messo ma che abbiamo nominato in trasmissione. Si trattava della trasmissione dedicata a DJ Richard, che ci aveva dato la possibilità di fare un po' una panoramica sulla scena elettronica attuale che ci piace. Avevamo suonato un altro pezzo, anzi una coppia di pezzi che diciamo che erano due pezzi gemelli che andavano insieme, che era Qualms and No Qualms, tratto da Qualm di Helen Auf, ma avevamo nominato questo pezzone che è Hyper Intelligent Genetically Enriched Cyborg. Al numero 75. Mm-hmm. ma come, su questa non ci parli sopra? No, perché sto ballando. E comunque quando parlo, perché scopro delle cose che mi piace condividere, cose che magari uno proprio non ci pensa andarsela a cercare, oppure boh, gliene frega il giusto, io invece le scopro e le racconto. E infatti dico sempre, io faccio sentire un po' di musica, tanto quel tanto che basta per farti capire se ti piace o no. Ovviamente, se poi ti piace, spero proprio che questa non sia l'unica occasione nella tua esistenza di poter ascoltare della musica, ma immagino che tu abbia i mezzi per andartela poi a cercare, per ascoltartela poi in santa pace nella tua cameretta o meno. Sì, dai, ci parlo sopra. E ci parlo sopra per dire, per annunciare il prossimo pezzo, che abbiamo fatto un po' delle eccezioni. Tipo, non suoneremo dei pezzi che ci piacciono tantissimo perché l'abbiamo messo in trasmissione poco tempo fa e diremo anche quali. In questo caso è una mezza eccezione, perché il pezzo che arriva tra poco è Noid di Yves Tumor, tratto dal bellissimo Safe in the Hands of Love, perché l'abbiamo già ascoltato un mix di due pezzi nella trasmissione sempre dedicata al Club to Club, dove l'abbiamo visto un live incredibile. Però siccome avevamo mixato con un altro pezzo, avevamo solo fatto sentire la prima metà, adesso partiamo direttamente dalla seconda metà di questa bellissima Noid. Dave Stumer, pseudonimo di Sean Bowie. Terzo album per la Warp, questo Safe in the Hands of Love, dopo un esordio nel 2015. E non so se mi era sfuggito l'altra volta o se ancora non era realtà, le prime righe della sua scheda di Wikipedia dicono: è un produttore americano di musica elettronica sperimentale, è nato nel Tennessee e attualmente è di base a Torino, quindi vive a Torino. Un album che si è piazzato al decimo posto, quindi nella top 10 per la classifica dei 50 migliori album di Pitchfork, e invece nella classifica delle classifiche generali al... Lions, don't lose sleep over the opinion of sheep. Nothing seems real till it lands at your feet. We all pay bills, I got gaps in my teeth. It never gave me luck, they're just gaps in my teeth. I smile a lot, why not? Fine girls getting eyed on. Al 23esimo. E come si può capire bene dall'accento, che mi piace tantissimo, siamo tornati nel Regno Unito con un grime rapper che si chiama Slotai. Abbiamo anche postato il video di questo pezzo, si chiama Ladies. cane roll, searching for God at the end of the rainbow. I'm in the Olympic road, doing up angel. Did I do it cause I say so? In big or king, I ain't trying to get a big or life of a sin. Can you give the boy a halo? Can you give the boy a blight? I'm just trying to get by, always told me lies. That they stood outside, pray at the demise. I'm an eagle flying. Scritto minuscolo, una sola parola, slow Thai con T-H-A-I, come fosse appunto Thai, Thailandia, thailandese. E invece lui racconta, lui si chiama Tyrone Frampton, e siccome diceva: io quando ero piccolo stavo sempre nel mio mondo, stavo sempre insomma con la testa tra le nuvole, ma osservavo tutto, però appunto stavo in disparte e guardavo, e quindi l'avevano soprannominato Slow Thai, quindi un po' lento. Adesso invece ha 23 anni, è un rapper emergente. Never got a response, only asked since a child. Been a short on trial, I'm sure that I walk this out. Caught this flight, deja vu. Che fa molto un po', sì, un po' lo scemo, un po' simpa, molto simpa, fa sempre delle facce molto strane e comiche. No more tag and no more nights, in on the curfew early night. No more job seekers, no more team leaders, wimping leaders. No more swinging out fights, everybody's swinging out knives like nobody dies. But it's comeback season, I'll come back when I'll come back needed. Man like little Joe, I'm squeezing, probably smoke more, I'm leaning. E in questo pezzo appunto rende omaggio alle donne della sua vita. Back then, scrumpy sipping, Lamborghini, never walk a brini. Gotta find my Avericks, they sell short for flavors. I wanna sell myself out for a built-in acres. I want a wife that's gracious, then we can get a yard that's big in Barbados. I appreciate queens cause they made us. I'll pour the sea, watch your fragrance, tasting like babies. Put me in a spell like Saiyans, shout when it's rainy. Bob Marley, what's your preference? Dopo Yves Tumor abbiamo saltato un altro pezzo hip hop di Ganna. E poi siamo arrivati a questo Slow Time. This one's for the ladies, cause they have all babies and they drive us crazy, but they made us men. This one's for the ladies, cause they have all babies. Yeah, they drive us crazy, but they made us men. L'ultimo verso, ripetuto due volte, di Ladies, dice: questo è per le donne che fanno i nostri figli, ci mandano nei matti, ma ci rendono uomini. Quindi insomma è il massimo dell'apprezzamento, dell'ammissione che può fare insomma un giovane maschio, grime rapper anglosassone maschio, ecco. Siamo arrivati a un altro dei pezzoni dell'anno, veramente. Pensate che in mezzo c'era un pezzo di un trio country, le Pistolennis, che ve lo risparmio, soprattutto guardare la copertina, sembrano le Yavanna. Abbiamo anche saltato Kamasi Washington, 70° posto, con Fists of Fury. E siamo arrivati adesso al number 69, ci sta. You wanna know how I get away with everything? I work all the fucking time. Marie Davidson. E abbiamo nominato sempre questo pezzo parlando di lei nella puntata di DJ Richard, dove abbiamo invece suonato un altro pezzo che sonicamente ci stava meglio, ma abbiamo nominato questo pezzone del suo album Working Class Woman, ovvero Work It. È bello perché lei, essendo canadese francofona, parla inglese con l'accento latino. Work, work to be a winner. Sweat. E questa la dedico a Marty con tutto il cuore. Sweat, sweat to be a winner. I wanna smell you. Yeah, I wanna smell you. I wanna smell you even from far away. I wanna smell you. I wanna feel you. So I can know if you're a winner, baby. Work, work it. E il primo verso dice: lo sai perché a me alla fine me la cavo sempre? I get away with anything. Perché lavoro. E quindi dice: lavora, lavora, suda, suda, suda per essere un vincente. Lavora per essere un vincente. It's sweat dripping down your balls. Well, then you're not a winner yet. But come on. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Sweat. Work it. Work. Work to be a winner. Marie Davidson, franco-canadese di Montreal. Noi l'abbiamo conosciuta con il suo terzo album del 2016, Adieu au Dance Floor. Feed yourself so you can be a winner. All together. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Winners. Addio Dance Floor, che per Pitchfork è stato uno dei 20 migliori dischi elettronici di elettronica del 2016, e poi nel 2018 è arrivato questo Working Class Woman pubblicato per Ninja Tune come Elena Auf. Work it good. Sweat, sweat to be a winner. See you later. E arriviamo ad una nostra vecchia conoscenza, che ci ha un po' deluso un po' con questo disco. Dopo l'esordio Mi, a cui avevamo dedicato una nostra puntatona e la grande eccitazione, emozione di averla vista due volte, una volta a Milano insieme ai Purity Ring, che fine hanno fatto chi lo sa, e una volta invece niente, a Porto al Primavera Sound, è uscito questo Us, parliamo di Empress Of, ovvero Lorelei Rodriguez, che sembra che ci sia un po' appiattito ad un suono R&B così pop californiano un po' generico. Paragoni con Robin per la capacità di saper cantare della fine dell'amore. Questo pezzo si chiama When I'm With Him, 68esimo posto. E tu non lo puoi vedere. I feel possessed, I can't help but repress all of the signs telling me that I'm not fine. Ma di questo album Us in realtà abbiamo già suonato in trasmissione un pezzo, perché ci stava, era la trasmissione dedicata a Let's It Grandma e il pezzo era All For Nothing. Yeah. una musicista diplomatasi alla prestigioso Berklee College of Music di Boston, ricordiamo anche le sue partecipazioni a dei pezzi molto molto belli di Blood Orange dello scorso album, adesso non ricordo, non voglio sbagliare il titolo quindi non lo dico, e anche un pezzo fatto con Pional, ovvero l'amicone di John Talabot. When I give these books away, will my ink betray me? Will my stories resist wings and grow feet? And convince me. Eh sì, il pezzo con Blood Orange era Best to You, contenuto in Freetown Sound, e questo. Questa artista che stiamo ascoltando è veramente arresting, come ho scritto postando un altro suo pezzo sempre in occasione della trasmissione su Club to Club. Arresting Beauty, Serpent with Feet. Child, bless your heart. Keep it tender heart. Heart. With you, I can empty myself of all my rivers. I'm a remarkable sky. How could I keep these love documents to myself? How could I restrict what's given me life? Today I'll find a kind and burrowing creature that can carry these pages into the ground. Serpent with Feet, il pseudonimo di Josiah Wise. With his family. And what was once a whisper will become a deep rumbling sound. Oh, child, bless your heart. Keep a tender heart. I'll keep. Tra i vari generi che si possono vedere elencati, elettronico, sperimentale, R&B, neo soul, quello che più si adatta per definire quest'ultimo bellissimo album Soil è gospel. Anche perché è cresciuto a Baltimora, una famiglia molto religiosa, suo padre aveva una libreria religiosa cristiana e sua madre era direttrice di un coro. Dopo un esordio con un EP nel 2016, Blisters, è arrivato questo bellissimo Soil. Infatti è stato molto molto bello la sua performance, molto intensa, magari in un contesto un po' strano come quello del Lingotto Fiera Club to Club. Il pezzo che avevamo messo di Serpent with Feet era Whisper, e consiglio davvero l'ascolto di questo album che nella classifica delle classifiche è tra i primi 50, al 48esimo posto, e è la seconda volta che la mettiamo in trasmissione, eh? Ariana Grande. Questo pezzo si chiama Sweetener, che è lo stesso titolo del suo album, che occupa la stessa posizione, l'undicesima come best album per il mondo e per Pitchfork. Come through like the sweetener, you had to bring the bitter taste to io l'ho messo perché mi piace molto questo pezzo, mi ricorda The Janet Jackson. E poco tempo fa, pochi giorni fa, sono andata a leggermi la sua scheda di Wikipedia, appunto collegata a Mac Miller, di cui lei appunto è stata fidanzata per più di un anno. E vedevo questa scheda lunghissima, eccetera, poi ho detto: ma aspetta, ma quanti anni c'ha questa? E è del 93, quindi ha 25 anni, dico, ma non è stanca. Beh, insomma, anche ci sono dei pezzi che invece abbiamo sfumato proprio della serie, vabbè, la citazione, però ecco, poi se lo vuoi sentire proprio tutto, veramente te lo vai a cercare tu. Era al 65esimo posto e al 64esimo arriva Kurt Vile. Kurt Vile. Con uno dei suoi pezzoni classiconi. Pezzo di inizio del suo ultimo album, uscito da poco, alla fine, Bottle It In. Il pezzo si chiama Loading Zones. Anche questo abbiamo postato il video, molto divertente. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by the all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, long for two, drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free, by mayoral decree, all from zone to loading zone of mine. Girls and a dying daddy, but oh so gorgeous the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I wanna rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around, all from zone to loading zone of my beautiful town. I park for free. One stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life. Kurt Vile, uno dei fondatori dei War on Drugs, insieme a Adam Granduciel, poi abbandonato in amicizia per proseguire la sua carriera solista, anzi erano insieme anche i Violators, che poi è diventata cioè, la backing band di Kurt Vile. Insomma, ormai dal 2008 sono tanti i dischi che ha fatto, quello che insomma ci ha conquistato è stato Believe I'm Going Down del 2015, poi c'è stato Laura Silice in coppia con Courtney Barnett e poi appunto alla fine di quest'anno è arrivato Bottle It In, ovvero imbottiglialo. Kurt Vile, che in realtà col suo album nel conteggio provvisorio delle liste di fine anno era tra i primi 50, 50, era il 48esimo quando ho controllato insomma la prima volta le classifiche aggregate di Album of the Year, invece poi ne è scivolato fuori. Poi sotto Kurt Vile in realtà ci sarebbe stata Snail Mail con Heat Wave, ma è un pezzo che noi abbiamo ascoltato nella trasmissione dedicata a Any Other, quindi la saltiamo, anche perché nella parte alta della classifica ha un altro pezzo, uno dei pezzi, due pezzi principali del suo album di esordio molto molto lodato dalla critica, e si chiama Lush, e che è il quinto album dell'anno per Pitchfork, 22esimo invece nella classifica generale. Invece adesso siamo arrivati a un altro singolo di un artista rap hip hop sempre anglosassone, si tratta di Octavian, questo pezzo si chiama Hands, come il nuovo pezzo degli Ofelia Dorme. Anzi, è il London MC che ha raggiunto il successo, insomma è stato conosciuto grazie ad un pezzo precedente, Party Here, che ha visto la partecipazione o l'endorsement, non capisco bene, di Drake. Quello di Octavian, un pezzo molto breve, siamo tornate al suono della cosiddetta americana ad opera di uno dei suoi più insomma grandi autori di questi ultimi ventennio praticamente, sì. Si tratta di Jeff Tweedy, ovvero la voce e la faccia dei Wilco. I watch you sleep. Oh, I wonder how much freedom you can dream. And I'm sorry when you wake up to me. Jeff Tweedy, che quest'anno ha pubblicato un album solista dal titolo Worm, e questo pezzo al numero 61 è Having Been Is No Way To Be. Now people say, what drugs did you take? Why don't you start taking them again? Anzi, Wilco esistono dal 94, hanno fatto un sacco di dischi. Noi l'abbiamo conosciuti nel 2001, Yankee Hotel Foxtrot, e poi Ghost Is Born, Sky Blue Sky, Wilco di album, fino ad arrivare a Schmilco nel 2016. Jeff Tweedy, famoso per i suoi demoni, per il suo consumo smodato di alcol, per la sua tristezza. E il titolo praticamente è essere stati, nel senso di non essere più, non è un modo di, non va bene come modo di essere, nel senso meglio vivi che morti, ecco. Il senso di questo pezzo, quello che racconta Jeff Tweedy. I'm reaching out to you. I'm writing all the time. E affronta il fatto che purtroppo esistono alcuni fan che preferiscono la musica che lui ha fatto quando era dipendente a dei antidolorifici, alcol eccetera, alle canzoni che invece ha fatto dopo che si è ripulito. E la canzone dice: ma loro non sono miei amici, e se fossi morto che differenza farebbe per loro? Dalla regia mi dicono dipendenza da barbiturici per i tremendi mal di testa di cui soffriva. Ed arriviamo alla Sensation of the Year, ovvero della band di Manchester, The 1975, che sembra che con questo disco hanno proprio sfondato. Noi l'avevamo sentito già un pezzo in trasmissione, sempre con i pezzi di fine anno dell'anno scorso, credo 2 anni fa. Si trattava di Somebody Else, tratto dall'album del 2016, a questo titolo un po' pretenzioso: I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it. Ovvero, mi piace quando dormi perché sei così bella, sebbene inconsapevole di ciò. E invece quest'anno hanno fatto un altro disco che si chiama A Brief Inquiry into Online Relationships. E questo pezzo, che si è piazzato alla posizione 60, si chiama It's Not Living If It's Not With You. Diciamo che tutto ruota attorno alla persona di Matt Healy, il frontman davvero della band, che è figlio di due television personalities, un attore e una presentatrice TV, insomma molto molto famosi in Inghilterra. È appunto, però questo ultimo pezzo del ritornello è proprio un plagio di Heaven is a Place on Earth di Belinda Carlisle. Quindi anche questo pezzo, vabbè la citazione, ma tagliamolo corto, perché invece adesso passiamo a una di quelle grandi belle scoperte. Tipo, per finire, The 1975, l'album al 21esimo posto per Pitchfork, al 26esimo posto per tutti gli altri. E invece questo è un cantautore squisitamente indie di Toronto. Si tratta di Mormor, scritto attaccato con le due M maiuscole, Mormor Morrissey, chissà. Close your eyes and see it through. anche di questo pezzo abbiamo postato il video in tardo pomeriggio. Questo synth, un po' nostalgia, un po' radio pop, tutti i suoni giusti secondo me. Guardate, questo pezzo è uscito all'inizio di febbraio e io lo scopro adesso. Infatti era stato etichettato come Best New Track da Pitchfork. Il pezzo si chiama Heaven's Only Wishful, tratto dall'EP omonimo, 5 pezzi. Quindi poi scopro che ci sono sempre questi articoli di approfondimento sotto la sezione Rising, che abbiamo scoperto tipo relativamente all'Acid Grand, ma abbiamo visto che c'è anche su Slow Tie e abbiamo visto che su Pitchfork appunto c'è anche riguardo a More More. Abbiamo detto di Toronto, Seth Nyquist, 26enne. Ho visto anche che in uno dei pezzi di questo EP c'è la partecipazione di Dan Bejar, un altro insomma dei nomi più indie del Canada. Che non conosce Dan Bejar, magari lo conosce col suo pseudonimo della sua carriera solista, ovvero Destroyer, ma anche parte importante dei New Pornographers. Ma questo è More More. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I been gone since like July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. Ayy. Rinominiamo ancora Drake, che sentiamo in questo pezzo in cui lui fa un featuring, ma in realtà il pezzo è di Block Boy JB, si chiama Look Alive. Rapper di Memphis, che lui è molto giovane, 22enne. Ha pubblicato tanti mixtape dal 2016 e questo è uno dei 5 singoli già pubblicati nel 2018. You and you, I'ma get the money, Trizzy get the loot, pull up with that Draco, play with Drake and I'ma shoot. Ed è questa la sua voce, perché insomma la vocina di Drake si riconosce. Pull up broad day with the canine shivering, drop a nigga like a littering. We at the door like we the delivering, he not a plug, he middleman. That nigga brown like cinnamon. Anche questo pezzo è contenuto in un mixtape che si chiama Simi. I'ma spray him, just like Febreze. Come a long way. E siamo alla posizione 57. La scheda di Pitchfork dice c'è una battuta che gira, che dice che avere un featuring, la partecipazione di Drake in un proprio pezzo, è come dargli le chiavi di una macchina che non ti sarà mai restituita, nel senso che poi Drake in qualche modo ruba il pezzo e lo fa suo, e invece si dice che invece Blockboy JB mantiene, diciamo, la proprietà del proprio pezzo. E siamo ritornati a Amen Dunes, perché sì, abbiamo fatto anche un'altra eccezione. Di solito se ci sono due pezzi dello stesso artista ne mettiamo solo uno, ma ci piace così tanto che anche questa Mickey Dora, tratta sempre da Freedom, l'abbiamo messa. Amen Dunes. Coasting all day, coasting all day. The way you're going, we know what you say. The ways are gone, the ways are gone, the ways are gone. Sitting there all gone. Took a hold of me, and I feel it when I cry. I can feel it in my dream. Mickey Dora, taking your time. Ways are gone, ways are gone. 'Scheda di accompagnamento a questa 56esima posizione dice: Mickey Dora è un'onda che non si infrange mai, un surf beat cosmico che pulsa per 5 minuti, in nostro caso 3 minuti e 45. Anche nella voce è molto psichedelico. Si può vederlo dal vivo, è stato veramente uno spettacolo come si muove. Mi è dispiaciuto tantissimo che credo a fine settembre l'ho perso al Covo. Damon McMahon, New York. Fuma così Mickey Dora di Amen Dunes. Siamo arrivati alla posizione 55, nonché ultimo video pubblicato stasera, poco prima della trasmissione, ovvero One More, tratto dall'omonimo EP di Yaeji, coreana di base a Brooklyn, che ha fatto successo. Insomma, abbiamo suonato sicuramente un suo pezzo, perché era sempre una classifica di fine anno nel 2017. Video molto carino, surreale. Di solito appunto i suoi pezzi sono cantati un po' in coreano, un po' in inglese. Mm. coreana americana, 25enne, nata a New York. Si pezzi tra l'elettronico sperimentale e l'house e l'hip hop. O forse non sta a Brooklyn, ma comunque sta a New York, ma è nata a Flushing, appunto un quartiere famoso per essere, insomma, un po' molto orientale cinese. È nata a New York, poi è cresciuta ad Atlanta e poi in realtà ha anche vissuto abbastanza in Corea. È andata a scuola in Giappone e poi è tornata negli Stati Uniti per studiare alla Carnegie Mellon a Pittsburgh e poi ha iniziato a fare la DJ usando Traktor, cominciando così a fare la DJ a casa, insomma, feste di amici in casa. E poi anche, diciamo, conosciuta per un remix di Passion Fruit di Drake, ancora molto bello. E poi l'uscita di EP e EP2 del 2017. Insomma, è arrivata anche a suonare a Coachella e sì, confermo, viva Brooklyn, se proprio ci tenevate a saperlo, Yai Ji. C'erano anche dei pezzi che noi pensavamo all'inizio di mettere in scaletta, ma poi erano veramente, veramente troppi. E quindi ad un secondo ascolto abbiamo detto, beh, vabbè, ma anche no. E uno di questi, per esempio, Arctic Monkeys, che era al 59esimo posto, alla fine l'ho ascoltato e ho detto, no, non mi piace, 4 out of 5. Poi al 54esimo, per esempio, abbiamo anche sacrificato Cardi B con featuring SZA, I Do, uno dei pezzi fortunati del suo debutto Invasion of Privacy, ma la riascolteremo. Abbiamo eliminato anche un altro rapper newyorkese, Shaq West, giovane, insomma uno new up and coming. Abbiamo escluso Sons of Kemet, My Queen is Harriet Tubman, 52esimo posto, un ensemble jazz londinese che appunto proprio non ci appartiene, non ce la sentiamo, anche se anche l'album è stato molto apprezzato. E quindi per finire questa trasmissione, che è fatto un po' una selezione tra le prime 50 posizioni della classifica di Pitchfork The 100 Best Songs of 2018, finiamo con Sandro Perry, o dovrei dire Sandro Perry, anche lui canadese. Anche lui di Toronto, come Mormor, post-rock, elettronica, sperimentale, ambient, folk. Prima si esibiva con lo pseudonimo di Polmo Polpo e la scheda in inglese dice che più o meno Polmo Polpo significa in italiano polmone di polipo, ma non è Polmo Polpo, vabbè, vai a spiega. Thank you. E come Polmo Polpo ha fatto 5 album e come Sandro Perry quasi il doppio, ma spesso degli EP come questo, In Another Life. In realtà questa traccia durerebbe più di 24 minuti, l'abbiamo ridotta a 3,45. Un pezzo sognante, un pezzo utopico, un pezzo che sogna un'altra vita, io spesso lo dico sì, in un'altra vita, che sogna un mondo in cui il seme dell'avidità si dissolva per la mancanza d'acqua, muoia di sete e finisce così. Questa prima parte, buon Natale, buone magnate, ci troviamo il 28 per parlare delle prime 50 posizioni. Ciao da Claudia Mighty Mouse.